Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, domenica mattina un'altra terrificante notizia. Una madre uccide il figlio. Un'altra mamma ha ammazzato con 13 coltellate una giovane vita di 3 anni, da lei partorita, come era successo qualche anno fa a Cogne e come succede in chissà quante altre parti del mondo civilizzato. Più che essere disorientati da queste notizie che si ripetono a ritmi incredibili, sembra quasi che ci si stia abituando ai comportamenti di queste giovani madri. Non riusciamo a spiegare queste tragedie se non attribuendo l'infanticidio al disadattamento delle madri di fronte alla responsabilità che loro compete. Sentiamo vivo il desiderio di guardarci attorno in cerca di un perché e soffochiamo il nostro disagio e la nostra inadeguatezza. Gli psicologi ci verranno a ricordare lo stato di abbandono nel quale si vengono a trovare le madri dopo il parto, nella nostra società opulenta e vuota, sole, sempre più sole, con i loro figli, frutti amati e odiati. Le madri della nostra generazione, 40 anni fa, hanno vissuto sacrificandosi in silenzio, vivendo solitudini maggiori di queste, eppure c'era qualcosa che le aiutava a vincere la pazzia. L'amore. Aveva 27 anni mia moglie, era di giugno. Faceva caldo quell'anno. All'ultimo piano del condominio l'aria era irrespirabile. La trovai stanca, sola ma radiosa per la maternità. In lei, la mamma delle bimbe, c'era amore. Qualcosa non mi torna. Sul palcoscenico della vita si stanno consumando troppe tragedie. Inondati da notizie sempre più assordanti, siamo tutti vittime del miraggio di una felicità sempre più irraggiungibile. Una felicità che ci costruiamo senza meta, senza via, senza anima. Una felicità fatta di niente, sovrastati da contraddizioni evidenti che non accettiamo. Poveri cristi, ragazzi morti ammazzati da chi sarebbe dovuto essere vicino alla loro solitudine. Autosacrificati alle droghe, in contrasto con i drogati protetti dal palazzo. Questa è una giornata umida e nebbiosa. Prevale solo il colore delle foglie gialle, cadute in tappeto ai piedi degli alberi in letargo. Una preghiera anche per chi non ha fede. Gioacchino. Caro direttore, Obama si è insediato come presidente a fine gennaio e secondo i sondaggi i risultati sino ad ora conseguiti sono giudicati insufficienti. Sembra ci si sia già dimenticati che la crisi finanziaria era di dimensioni ciclopiche e che quindi non poteva essere fatto molto in così poco tempo. Dai commenti fatti nella settimana scorsa ho appreso che 39 rappresentanti del Partito Democratico al Congresso hanno votato contro la riforma sanitaria voluta da Obama. Un solo repubblicano ha votato a favore. Domenica notte il Senato ha consentito di discutere la riforma sanitaria con 60 sì e 39 no, ma ha stabilito anche che la stessa potrà essere successivamente approvata a semplice maggioranza, 51 voti su 100, abbassando così il quorum da 60 a 51. Nel caso in cui il Senato dovesse modificare la legge ricevuta dal Congresso, lo stesso Congresso dovrebbe approvare il nuovo testo. Da quanto sopra ne deriva che la prima votazione fatta al Senato è una specie di pregiudiziale. Se non avesse raggiunto la quota di 60 voti favorevoli, non avrebbe potuto essere messa in discussione la legge per come era stata ricevuta dal Congresso. Esiste quindi, nella Repubblica presidenziale americana, la necessità di doppia lettura delle leggi, con necessità anche di successivi passaggi per averne l'approvazione definitiva. Alla luce di ciò, siamo proprio sicuri che le riforme della nostra Costituzione, proposte da più parti, abbiano senso e che il ruolo del Parlamento sia svilito come accade oggi? Al momento mi sembra che oltre alla riduzione del numero dei parlamentari e all'abolizione delle province, non si potrebbe andare oltre senza incorrere in pericolosi rischi. Le incognite sono superiori agli sbandierati vantaggi. Infatti nel 2006 è stata bocciata una riforma costituzionale partorita in soli 3 giorni, nella quale la riduzione dei parlamentari sarebbe dovuta avvenire nel 2015. Vorrei qui concludere ricordando che il sistema americano vige da più di 60 anni e che la gatta frettolosa fa i figli ciechi. Agostino. Ho vissuto per anni all'estero. Ho sempre pagato le tasse e non ho mai votato, neppure per la più piccola indagine. Altro che per decidere chi prende le decisioni nello Stato o nel Comune. Voto agli immigrati? Assolutamente no. Né dopo 5 anni, né dopo 10 o 20, eccetera. Se ne può riparlare per i figli nati in Italia, quando avranno terminato le scuole italiane e saranno diventati maggiorenni, sempre che non abbiano avuto problemi con la giustizia. Sono decisioni dalle quali non si può più tornare indietro. È meglio pensarci un po' più profondamente. Margherita. Caro direttore, vorrei esporle alcune riflessioni sul problema del voto agli stranieri. I dati Istat ci dicono che la popolazione non italiana, residente legalmente nel nostro paese, ammonta al 6,5% del totale. Se si esaminano i dati di alcune grandi città, si scopre che questo valore è molto più alto. Ad esempio, a Torino, dove vivo, gli stranieri regolari sono il 13% dei residenti. Sono numeri che devono portarci a riflessioni e scelte pragmatiche, non dettate dall'emotività. Lasciamo da parte se multietnico è bello o se dobbiamo difendere a spada tratta le nostre tradizioni. Guardiamo ai fatti. Se queste persone risiedono legalmente, vuol dire che hanno un lavoro regolare e conseguentemente pagano le tasse. Pagano le tasse, ma non possono esprimere nessun parere su come questi soldi vengono gestiti e su chi li gestisce. Finché gli immigrati erano pochi, il problema non si poneva. Ma ora che iniziano ad essere milioni, la questione non può più essere evitata. Chi di noi accetterebbe di pagare le tasse senza poter dire la propria sull'uso che di questi soldi se ne fa? Lo slogan dei coloni britannici negli Stati Uniti a metà del Settecento, prima dell'indipendenza, era «No taxation without representation», cioè le tasse si pagano se si ha un diritto di rappresentanza. Senza tale diritto, la loro esazione rischia di essere un abuso. È vero che in cambio delle tasse che pagano, gli stranieri ricevono dei servizi, però parte dei loro soldi serve anche a pagare i costi della politica, di quegli stessi politici che vogliono negare loro qualsiasi diritto di rappresentatività e di espressione di democrazia. C'è anche un altro aspetto che ci riguarda tutti, ed è quello relativo ai rapporti con queste persone. Adesso che sono così tante, non è possibile sfuggire alla questione della loro rappresentatività. Spesso pensiamo che per noi gli stranieri siano un problema, come abbiamo visto per i casi di delinquenza o di scuole con troppi non italiani. Ma come facciamo a dialogare con loro per affrontare e risolvere questi problemi, se non li aiutiamo a crearsi dei rappresentanti? Non possiamo certo parlare con ciascuno di loro. Bisogna che si formi una classe politica di persone scelte dagli immigrati per rappresentarli. E tale scelta può avvenire solo con lo strumento democratico della partecipazione ad elezioni. Altrimenti si corre il rischio, come purtroppo sta già avvenendo, che i rappresentanti di alcuni gruppi etnici siano capi religiosi, spesso estremisti, autonominatisi in tale ruolo. Questa è una iattura che va assolutamente evitata utilizzando lo strumento principe di ogni democrazia, le libere elezioni, alle quali partecipino tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religioni e opinioni politiche, come recita la nostra Costituzione. Francesco, Torino. Caro Francesco, il tema del voto agli immigrati agita costantemente il dibattito politico, come dimostra anche il duro scontro verbale tra il presidente della Camera Gianfranco Fini e gli esponenti della Lega proprio sull'immigrazione. Ebbene, lei ha ragione nel sottolineare che se si vuole veramente parlare di integrazione è indispensabile concedere il voto agli immigrati per farli sentire partecipi fino in fondo dei diritti e dei doveri di appartenere a una comunità nazionale. Ma senza dimenticare che ci sono due livelli che vanno esaminati insieme ma decisi in maniera diversa. C'è il livello del voto locale amministrativo, come quello dei comuni, dove dovrebbero poter votare tutti i residenti con regolare permesso di soggiorno. C'è poi il voto politico per le regioni e soprattutto per il Parlamento nazionale, dove deve entrare in gioco il concetto di cittadinanza, un concetto che va oltre la semplice residenza e anche il pagare le tasse. Il cittadino è chi accetta fino in fondo di integrarsi e vivere pienamente nella società, riconoscendone i valori e le tradizioni di fondo. Ebbene, ottenere la cittadinanza in Italia non è facile, nemmeno per chi è nato e studiato in Italia. Fare almeno qualche piccolo passo in questa prospettiva, senza ovviamente aprire le porte in maniera indiscriminata, appare in questo momento utile e opportuno. Quindi, pur con prudenza e spirito costruttivo, bisogna aprire il voto amministrativo anche a chi non è cittadino italiano, ma è residente e rispetta le leggi, e insieme rendere più moderna e realistica la concessione della cittadinanza, ma solo per chi è perfettamente integrato nella società italiana. Egregio direttore, ho ascoltato l'interessante reportage sull'iniziativa della Giordania di un tavolo aperto nord-sud del Mediterraneo per valutare vari aspetti sociali, economici, di integrazione, eccetera. Secondo me produrrà poco o niente, perché è l'iniziativa isolata di un singolo sovrano modernista, probabilmente non condivisa da altri satrapi della zona, e poi perché sono due mondi troppo diversi. Il nord ha sistemi democratici con cittadini motivati. Il sud è governato da dittatori, con popolazioni culturalmente troppo diverse da noi, ancorate a un atavico immobilismo socio-religioso. Faccio presente che il canale di Sicilia, fin dai tempi di Cartagine, è stato una trincea fra due mondi, con reciproche non amichevoli incursioni. Pensi alle coste del sud Italia farcite da centinaia di torri di avvistamento. Ogni ottimismo è assolutamente fuori luogo. Edoardo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.